Ancora una volta, anche in quest'anno di poca grazia, 1998, la pubblicità cinematografica reclamizza film di Natale. E questi film di Natale sono ormai un'affliggente categoria dello spirito, sono un a priori della condizione umana da cui nessuno sembrerebbe poter scampare impunemente. Nella presunzione che a Natale si debba far ridere e che loro ci riescano, si mette assieme qualche comico disoccupato che non badi alla volgarità e che faccia capolino ogni tanto in televisione, e qualche sketch appiccicato con lo sputo l'uno all'altro, un paio di battute di grana grossa a spese di femmine procaci in abiti succinti, e se ne fa un film che dura giusto a malapena il tempo delle festività, prima di essere riciclato variamente nelle televisioni commerciali. Noto che quest'anno fra i boldi di De Sica, in Paparazzi, che è dello specialista Neri Parenti, che per i film di Natale forse meriterebbe il Nobel, figura anche Nino D'Angelo. Sì, Nino D'Angelo, l'evento mi induce ad alcune più amare riflessioni. Nino D'Angelo era un cantante, presumibilmente lo è ancora, napoletano tipico, ha ottenuto la sua dose di successo cantando canzoni d'amore, alcune in dialetto, interpretando qualche film popolare, come si suol dire, la cui giustificazione ultima risiedeva nella canzone medesima, così come è stato a suo tempo per Luciano Taioli o per Gianni Morandi. Questo rapporto diretto fra il suo successo e la sua attività di cantante è cosa di parecchi anni fa. Poi, come un po' tutti i protagonisti di tutte le vicende di questo tipo, anche Nino D'Angelo si è dovuto barcamenare in un inesorabile declino. Capita ai cantanti di esibire un bel giorno le proprie virtù canorie a milioni di spettatori e poi, in un giorno più brutto, di ritrovarsi a cantare in una balera di periferia. Oppure di attendere spesso invano che qualcuno li richiami. Come è noto, le luci della ribalta non rimangono sempre accese. La figura di cantante di Nino D'Angelo mi ricorda quella di Orietta Berti e di Mino Reitano. Finché la barca andava, loro la lasciavano andare, ma ad un dato punto della crociera, diciamo che sono colati a picco. Un tempo si spariva alla vista, si finiva nel dimenticatoio delle stelle e qualcuno disabituato alle stalle ci lasciava le penne. Nino D'Angelo invece è ancora qui, per dirla come la direbbe Raffaella Carrà, che l'ha avuto addirittura come ospite d'onore qualche settimana fa nel suo show del sabato sera e anche ieri sera, tanto per fare un po' di pubblicità ridanciana natalizia a questo film dei Paparazzi. Ancora qui ogni tanto in televisione ricompaiono le floride sorridenze di Orietta Berti o le struggenti mestizie di Mino Reitano. Come tanti Lazzari, qualcuno gli ha detto alzati e cammina, e questi sono ricomparsi, perfino cantando zombie melomani, esattamente come prima. La televisione fa miracoli. In realtà non sono loro, sono metafore di se stessi in menti e in linguaggi altrui, citazioni di ciò che i vari Nino D'Angelo, Orietta Berti e Mino Reitano sono stati. Non a caso la loro prima ricomparsa avviene per lo più in grazia di trasmissioni irrimediabilmente strane al genere che costoro frequentavano ai tempi d'oro. Per lo più avviene in trasmissioni dove, in nome di una comicità che oggi viene detta demenziale, ma che mai è poi disgiunta da una dose cospicua di cinismo, e allora il loro senso viene irrimediabilmente rovesciato. E dove di quel rapporto fra il loro successo e l'attività che svolgevano, anzi si ride in queste trasmissioni, sono chiamati ad essere ancora quel che erano, ma in un contesto talmente diverso che non possono evitare di risultare tutt'altro. E in quanto palliativi, sono per l'appunto metafore viventi. stanno al posto di quel che sono stati. Da questo punto di vista, allora, più è il loro nuovo successo e più li si insulta. Perché una metafora è compresa soltanto allorquando gli interlocutori ripetono le medesime operazioni mentali che ha compiuto chi si rivolge loro, chi vi comunica. E viene spontaneo chiedersi se costoro, questi riciclati come tante citazioni di se stessi per farsi belli oggi di quanto fossero brutti ieri, che è poi un'assunzione ideologica proterva e fondamentalmente stupida, beh, se costoro siano consapevoli di quanto è loro toccato. Avranno pure dei figli, dei parenti o degli amici che, non so, facendosi coraggio, gli hanno fatto notare che lo spazio concesso improvvisamente loro in televisione era un gesto non tanto di stima quanto di irriverenza. O ci saranno anche arrivati da sé, si saranno pure rivisti sullo schermo e avranno pur ben compreso che l'espressione concessa alle loro doti canore era l'esatto equivalente di una torta in faccia. O no? Più sì che no. Ma ciò nonostante, e qui sta il punto, né si sono ritratti sdegnati, né hanno posto un secco rifiuto a proseguire, né tantomeno hanno fatto causa alle varie televisioni che hanno approfittato di loro e della loro umana ingenuità. E invece ci hanno sguazzato. Magari ho torto collo, ma ci hanno sguazzato. Perché alla faccia dell'ingenuità, hanno forse capito che i contorni dei generi televisivi non sono poi così rigidi e impermeabili come sembrano, e che continuando ad esserci, questa è l'unica cosa che conta nella vita sociale di oggi, esserci, beh, continuando ad esserci, prima o poi, può anche ricapitare l'occasione di essere se stessi. To feel